Uno, due, tre. Adesso, tra poco ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. L'Italia si desta. Siamo qui allora alle 7:22 minuti, ben ritrovati. Se vi siete aggregati solo ora, come dico sempre io, razza di debosciati, siete comunque ben accetti. Vi ricordo che oggi parleremo di Siria, perché incombe davvero questa guerra o attacco mirato con gli Stati Uniti in capofila. Sarà con noi Giuliano Ferrara, direttore del Foglio, che ieri ha scritto contro i politici che digiunano. Non contro il digiuno invocato dal Papa, ma contro i politici che aderiscono a questo digiuno. E sarà con noi anche Giulietto Chiesa. Questo alle 8:15, se saremo fortunati, ci collegheremo anche con l'inviato del giornale Gian Micalessin a Damasco, se saremo fortunati per le linee telefoniche, ovviamente. Questo più tardi, ora andiamo a scoprire cosa ci propongono i quotidiani. In questo giovedì 5 settembre, beh, ieri parlavamo di crisi sempre più vicina. Ancora oggi i giornali titolano e raccontano che c'è un Berlusconi pronto a far saltare il banco, con ulteriori particolari rispetto a ieri. Effetto crisi su borsa e BTP, così apre il Sole 24 Ore, quindi fa già un'analisi di quello che potrebbe essere l'effetto di una crisi di governo. Per il Corriere della Sera, PDL e PD sempre più lontani, questo è il titolo di prima pagina. Il Messaggero, pericolo crisi, appello di Letta. Per il Fatto Quotidiano, scudi umani scatenati per salvare Berlusconi al Senato. Libero invece si spinge già oltre, via Letta è pronto amato. Napolitano pensa di piazzare l'amico alla Corte Costituzionale per tenerlo in caldo se cade il governo. Il giornale, il PD affossa Letta. L'Unità, Berlusconi minaccia l'Italia. Il Secolo XIX, Berlusconi scontro in giunta. Come vedete, una carrellata di titoli poco incoraggianti per la tenuta del governo. Repubblica invece apre sulla Siria. Obama, il mondo stia con me. La Stampa invece sulla Fiat, 1 miliardo per Mirafiori. Il manifesto sulla Siria con la foto di John Kerry e il titolo Give Peace a Chance. E invece Gridiamo la pace, il titolo di apertura di Avvenire. Voglio partire però da che cosa? Cose più concrete, più terrene, più vicine agli italiani, soprattutto dalla prossima settimana, come racconta il Sole 24 Ore, a pagina 5, saranno vicinissime agli italiani. Vi entreranno in casa attraverso la busta, una busta che vi verrà recapitata forse nella casella della posta. Parte il redditometro. Parte il redditometro, sono pronte le lettere per il redditometro, come racconta appunto Marco Bellinazzo a pagina 5 del Sole. Dalla prossima settimana entrerà nel concreto la campagna di controlli legati al nuovo redditometro. Gli uffici dell'Agenzia delle Entrate sono già stati allertati, in queste ore stanno ultimando le liste selettive di contribuenti a maggior rischio evasione, per i quali il ritorno dalle vacanze si annuncia particolarmente amaro. A finire nel fisco saranno, si spera, aggiunge Bellinazzo, solo quei contribuenti per i quali le spese sostenute nell'anno d'imposta 2009, ritenute rilevanti dall'amministrazione finanziaria, risultino essere nettamente superiori, oltre il 20%, rispetto al reddito dichiarato. Dunque, avete fatto delle spese del 2009, che rischiano di non essere spiegabili e superano ben oltre il 20% il reddito dichiarato, qualcosa che insomma uno può dire: ma come fa questo signore a essersi comprato una barca, oppure queste due o tre macchine, o questi oggetti, questi gioielli? Non lo so, se siete in questa categoria potrebbero arrivare pronte, pare, 35.000 lettere entro la fine dell'anno arriveranno. Oh, ci sono anche le istruzioni per l'uso. Carlo Nocera, sempre sul Sole, sotto l'articolo di Bellinazzo. Chi non trova i documenti, perché io lo sento, ma io ho perso tutto, non ho tenuto niente. Chi non trova i documenti può chiedere una proroga. Comunque ci sono tutte le istruzioni per l'uso. Se dalla settimana prossima verrete così raggiunti da una lettera dell'Agenzia delle Entrate, non preoccupatevi, insomma, è il nuovo redditometro, può succedere. aprite magari in maniera circospetta la casella della posta, ecco, perché uno sbirciate prima per vedere se c'è questa busta gialla, com'è gialla, credo, dell'agenzia delle entrate. Va bene, allora il redditometro c'è, come c'è sui giornali, tutta una serie di articoli di chi è andato a spulciare nell'inchiesta che coinvolge, no? Che riguarda la cosiddetta VatiLeaks, cioè le carte depositate, sono 40.000 pagine, dell'ex presidente dello IOR, l'Istituto Vaticano, Ettore Gotti Tedeschi, banchiere poi costretto alle dimissioni. E leggere attraverso queste carte che sono pubblicate oggi sui giornali è una lettura di uno spaccato d'Italia che non manca mai. Raccomandazioni, suggerimenti ai politici, consigli. Guardate per esempio il titolo di queste pagine, sono pubblicate dovunque, eh? Per esempio in prima pagina del Corriere, nomine, pressioni, trattative, le carte segrete di Gotti Tedeschi, oppure il Messaggero, IOR, le raccomandazioni di Gotti Tedeschi. Due pagine sulla Stampa, il titolo è emblematico, il condono dell'ICI alla Chiesa, ci aiuta il ministro Tremonti. Ecco, spulciando, sono mail, carte, lettere, per esempio... Racconta Guido Ruotolo sull'ICI e la Chiesa. A un certo punto, bel problema, il segretario di Stato Cardinale Tarcisio Bertone di allora ha bisogno di una nota e ecco che la scrive Gotti Tedeschi. Caro Monsignor Georg, la spedisce anche a Georg Genschwein, il segretario del Papa Ratzinger, le allego il documento sul problema piuttosto grave dell'ICI, che credo di aver risolto, quantomeno creato le condizioni per riuscirci. Ieri abbiamo parlato col commissario europeo Almunia, sembra pronta a concedere una dilazione fino a novembre, a condizione di ricevere una lettera che lo spieghi dal Ministero del Tesoro. La segreteria del ministro Tremonti la manderà in questi giorni, suo Ettore Gotti Tedeschi. Cioè, scrive Ruotolo, il documento spedito al segretario di Stato e al segretario del Papa rivela una fonte privilegiata del banchiere nell'elaborare la memoria stessa, cioè il ministro del Tesoro Giulio Tremonti, o comunque la segreteria del ministro Tremonti. E poi le raccomandazioni, Ettore Gotti Tedeschi si preoccupa per la nomina del direttore generale della RAI, lei... A un certo punto scrive a Tarcisio Bertone, mi risulta da fonte attendibile che la nomina di Lorenza Lei alla direzione generale della RAI possa trovare ostacoli. Due ragioni principali: risulta che la dottoressa Lei avrebbe un paio di occasioni sussurrato che il cardinal Bertone ha ricevuto assicurazioni da Berlusconi sulla sua nomina. Queste dichiarazioni hanno però provocato una certa opposizione interna e esterna, detta designazione oltretevere. Risulta anche che la Lega voglia contare in RAI e mi viene detto che il candidato della Lega è l'attuale vice direttore Marano. Insomma, si occupava anche di cose molto terrene, ma davvero uno spaccato di intrecci con la politica. Per esempio anche l'ex sottosegretario all'interno Alfredo Mantovano di AN si rivolge molto a Gotti Tedeschi per il tema del testamento biologico della legislazione. A un certo punto gli scrive: caro Ettore, perdonami, ma sulla questione del testamento biologico, scrive Mantovano, vi è la necessità che dalla CEI arrivi un segnale. So di pareri analoghi a quelli che ho cercato di scrivere, che stanno giungendo anche da altri, al cardinale presidente, vorrei far pervenire il mio un caro saluto in domini. Così Alfredo Mantovano si rivolgeva a Ettore Gotti Tedeschi, che poi gli rispondeva. Insomma, uno spaccato molto interessante pubblicato da tutti i giornali oggi. Ed ecco Alessandro Milan che legge i giornali come nessuno al mondo sa leggerli. Ora la domanda, leggendo i giornali alle 7:35 minuti, dal punto di vista politico è: ma davvero siamo a un passo dalla crisi? Perché così sembra, anche se è un'altalena di situazioni. Al mattino sembra che Berlusconi voglia mandare tutto carte all'aria, al pomeriggio invece vincono le colombe che lo convincono a desistere. Per esempio, era già pronto un videomessaggio per spiegare agli italiani il perché della crisi, facendo ritirare le deleghe a tutti i ministri del Popolo della Libertà. Questo per il Foglio è un giallo, per il Corriere della Sera è una certezza. Francesco Verderami, a pagina 3 del Corriere, sotto il titolo "Una fragile pausa pensando al voto, rinviato il videomessaggio al paese". Ecco, si parla di questo videomessaggio. Un Berlusconi che rinchiuso ad Arcore diceva ieri come un mantra: non si può stare a letto con il nemico. Non si può stare a letto col nemico, ripeteva ancora ieri sera il cavaliere, che il videomessaggio l'ha registrato ieri pomeriggio e tuttavia ha accolto i suggerimenti dei capigruppo del PDL al Senato e alla Camera, Schifani e Brunetta, e ha deciso di attendere fino lunedì alla riunione della giunta di Palazzo Madama che dovrà decidere sulla sua decadenza. Altrimenti, gli hanno detto Brunetta e Schifani, in questo retroscena di Verderami, verresti dipinto come il nemico del popolo, ti assumeresti la responsabilità della caduta del governo. Il problema è che si chiede, Verderami, ma c'è un margine per sperare che in 24 ore con una seduta della giunta del Senato si ricomponga una guerra che dura da 20 anni? La verità è che nulla è cambiato dal giorno della sentenza alla Cassazione, lo si intuisce da chi? Dall'umore di Gianni Letta, sfiduciato doppiamente, dispiaciuto doppiamente, sia per Berlusconi sia per il premier suo nipote Enrico. Tanto che guardate oggi Giannelli nella sua vignetta di prima pagina del Corriere, è straordinario, c'è Enrico Letta al telefono dalla Russia, gli dicono cattive notizie, e Berlusconi non recede, e lui: oh mio zio, non male, non male la vignetta di Giannelli. A corollario di questo retroscena c'è un'intervista al capogruppo alla Camera del PDL, Renato Brunetta, intervistato da Tommaso Labate, sempre a pagina 3 del Corriere, dice: io continuo a dirlo, voglio che il governo duri, ma se il PD continua a puntare allo sfascio saranno loro, non noi, a decretare la fine del governo. L'unica risposta a quel punto sarebbero elezioni anticipate. E la riforma elettorale, il tema della riforma elettorale non esiste. Udite bene, cari italiani, lo dice Brunetta, non esiste una legge elettorale, c'è. E voi pensate siamo nella 18ª settimana decisiva per la riforma elettorale? E invece no. Brunetta dice il tema della riforma elettorale non esiste, c'è già una legge elettorale. E comunque mi rivolgo a Napolitano, una figura sempre più centrale. Abbiamo lo spread 243, siamo il malato di un'eurozona in cui tutti tranne noi hanno un piede fuori dalla recessione, ma vediamo la luce in fondo al tunnel. E allora, dice Brunetta, perché sacrificare tutto questo e scegliere la strada di una guerra civile fredda? Perché abbandonare la pacificazione di cui ho parlato annunciando a nome del PDL la fiducia al governo mentre applaudiva anche Enrico Letta? Ci si può fermare un attimo prima, lo dico agli amici del PD. In questo schema Napolitano deve essere il garante finale di tutti. Dice ancora Brunetta: cari amici del PD, attenti, state scherzando col fuoco. Vedo in loro i vecchi metodi stalinisti di usare una sentenza per eliminare politicamente Berlusconi. Il calcolo è sbagliato: se si va alle elezioni, Berlusconi leader, Alfano segretario, il gruppo dirigente fatto dagli eletti, in continuità con la situazione attuale. Questo è Renato Brunetta. Che la situazione sia altalenante, anche il Foglio la dipinge in prima pagina con un articolo proprio dal titolo La giostra del Cavaliere pare fermarsi sulla crisi, ma poi riparte pazzamente, è così. Addirittura martedì dice che Berlusconi, dopo aver incontrato Verdini e Santanchè, li ha accomiatati accompagnandoli alla porta, scrive il Foglio, gli ha detto bisogna convocare l'ufficio di presidenza del PDL per venerdì e mettere i ministri in dimissione. Dopodiché nel pomeriggio la crisi sembrava un passo, addirittura una collaboratrice di un ministro al Foglio dice spero, aveva detto martedì, spero di ricevere almeno gli arretrati dello stipendio prima che il governo cada. Questo martedì mattina, martedì pomeriggio la crisi improvvisamente controordine, niente più crisi. Alfano, appena chiuso il telefono con Verdini, avvisa Gianni Letta, si mette in moto la macchina delle colombe e per il momento tutto congelato. Sì, ma quanto durerà questa situazione? Beh, intanto Marzio Breda, quirinalista del Corriere della Sera, fa sapere a pagina 4 e 5 che Napolitano sta vivendo con preoccupazione e incredulità gli ulteriori sviluppi di questa vicenda. Anche per Repubblica la crisi è vicina. Tommaso Ciriaco a pagina, in prima pagina e poi a pagina 3, il Cavaliere però rinvia la rottura di una settimana perché dice devo far venire allo scoperto i nostri traditori, perché questo è un altro punto. Secondo rumors, Berlusconi starebbe cercando di stanare anche coloro che all'interno del PDL, di fronte a una possibile rottura, possano dire no, bisogna andare avanti, e quindi quelli che sarebbero i traditori per Berlusconi nel PDL. Anche il Messaggero punta su questa pagina 3, Berlusconi prepara un video e apre la caccia ai traditori all'interno del partito. Come dire, Libero ha già la soluzione. Via Letta è pronto amato. Questo è il titolo di prima pagina. Uno dice: ma come, ma Giuliano Amato? Ma sempre Giuliano Amato. Uno ironicamente mi ha scritto su Twitter poco fa, sul mio profilo Alino Milan: pare che Amato sia stato proposto come presidente del tennis club degli scacchi. Faccia un po' con lo spiritoso, perché tra l'altro Amato è anche presidente di un tennis club il club degli scacchi, sì. Invece un tennis club, credo a Orbetello, ne è il presidente o presidente onorario. Quindi insomma, Giuliano Amato, la figura che vale, che vale sempre e che viene nominata sempre. Napolitano riesuma Amato per fare la riserva di Letta, questo scrive Libero. Il piano sarebbe questo: mettere Giuliano Amato come uno dei 15 giudici della Corte Costituzionale, perché uno dei 15 ora va in pensione e la nomina va fatta, cioè ci vuole un giudice della Corte Costituzionale. Giuliano Amato è quello che viene citato come possibile giudice della Corte Costituzionale, e per Libero questo sarebbe un modo per tenerlo in caldo lì come giudice della Corte Costituzionale se cade il governo, come possibile soluzione. E insomma, la crisi è a un passo. Nonostante ciò, il premier Enrico Letta, che è in Russia per il G20 per parlare anche di cose molto serie, la lotta all'evasione fiscale, ma anche ovviamente si parlerà, si immagina, di Siria, visto che c'è Obama che va in casa di Putin, e quindi i due grandi protagonisti di questa possibile guerra. Eppure, pur dovendosi occupare di queste cose molto serie, Enrico Letta si deve occupare anche della possibile crisi. Come racconta nel retroscena dell'Unità, pagina 3, Ninni Andriolo, Letta sfida il Cavaliere, la ripresa è un passo, perché la crisi? Questo è il titolo. Se tutti i segnali dicono che alla fine dell'anno la situazione svolterà in modo positivo per l'Italia, perché, dice Letta da San Pietroburgo, la ripresa che ha portata di mano ha bisogno di misure adeguate, perché ora la possibilità della crisi? La crisi e la rottura sarebbero incomprensibili, visto che presto tornerà il segno più sull'economia. Nonostante ciò mostra ottimismo Letta, no? È da un paio di giorni che ha detto quella frase, ricordiamo, come i portantini della processione di Santa Rosa Viterbo, quelli che portano in maniera arrancante questa grande struttura sulle spalle, barcollano, sudano ma non cadono mai. Insomma, l'ottimismo di Letta è fotografato in un impietoso graffio di Iena a pagina 3 della Stampa, dal titolo Russia. All'inizio del 1917 lo zar Nicola II ostentava ottimismo, proprio come Letta ieri. Questo Iena sulla Stampa a pagina 3. Un'ipotesi di scenario politico è proprio quello che vede protagonisti alcuni del Movimento 5 Stelle. Ieri noi ne abbiamo parlato, alle possibilità di alleanze. Sapete che qualcuno ha aperto alle possibili alleanze, tra tutti il senatore Orellana, che ora poi ha aggiunto: sto meditando di lasciare il Movimento 5 Stelle. Ecco, negli scenari politici delle fibrillazioni, sono tornate le fibrillazioni, vabbè, che potrebbero portare alla crisi di governo, lo scenario potrebbe essere un Letta bis appoggiato anche da dissidenti del Movimento 5 Stelle. Per il giornale Emanuela Fontana, pagina 6, sono già in 5 del Movimento 5 Stelle pronti ad aiutare Letta. Uno di questi è certamente Orellana, così identificato dal giornale, già definito neoscilipoti da alcuni nei forum del Movimento 5 Stelle. Insomma, staremo a vedere se questo può essere uno scenario politico. Insomma, come vedete, di cose concrete, a parte il redditometro, a parte l'economia, il lavoro, cioè a parte di cose concrete, il lavoro, l'economia, tutte le cose, è tutto preso dalla scena politica e dalla possibile crisi. Anche il PD, su cosa si dibatte nel PD? Si dibatte sul congresso, si dibatte su questa ipotesi della crisi, alla quale racconta Maria Teresa Meli sul Corriere, ma ora il PD si chiede Se davvero sarebbe pronto ad affrontare già a questo momento eventuali elezioni o comunque una crisi di governo. E poi c'è la battaglia per il congresso, tutti su Renzi. Anzi, tra poco vi dirò i nuovi per Renzi, dicendo che l'ufficio stampa di Matteo Renzi ha fatto sapere che il carro del vincitore è pieno e quindi astenersi, nuovi saltatori pregasi astenersi. Oh, siamo quasi in zona la carta costa, il premio di oggi, chissà chi vincerà il premio per l'articolo più inutile scovato sui giornali. Oh, dicevamo il PD, Veltroni ha fatto l'endorsement per Renzi, Marino non ha fatto l'endorsement, non si sa, ma ieri quando si sono trovati Renzi e Marino a Roma la gente urlava viva gli sposi, siamo così tutti a fare l'endorsement per Renzi. Ma udite un altro, ho trovato in un trafiletto di un giornale che adesso sono qui, Bassolino, Antonio Bassolino, alla festa del PD di Avellino ha detto Renzi, io sto con Renzi. Non lo so, nell'immaginario, per chi conosce le dinamiche del PD, posso immaginare che Antonio Bassolino corrisponda per storia politica a ciò che di più lontano c'è dal modo di fare, di intendere la politica di Matteo Renzi, eppure c'è questo sport nel quale i politici, soprattutto in questo caso del PD, stanno eccellendo in questa ripresa autunnale, che è il salto sul carro del vincitore. Ormai straborda questo carro del vincitore, tanto che Fioroni, intervistato sulla Stampa, invece dice no, il rottamatore si deve rassegnare, non può essere eletto segretario subito, e chi lotta è anche Bersani, pare. Sentite in un retroscena di Giovanna Casadio, su Repubblica, a pagina 7, Pierluigi Bersani starebbe meditando la contromossa. E la contromossa è questa, piano di Bersani per bloccare Matteo, fare slittare il congresso al 2014, magari prendendo a pretesto anche la situazione di un'eventuale crisi politica. Comunque la politica è questa, già Piazza Affari, come fa sapere il Sole 24 Ore nel resoconto di come sono andate ieri le borse, teme la crisi politica. Milano ha perso ieri l'1,35%, unico listino in rosso in Europa, lo spread è salito a 248 punti. Insomma, i segnali che vanno a seguire le minacce della politica non sono segnali positivi. Un segnale invece positivo, certamente per l'economia, è la questione della Fiat, che ha oggi un ampio risalto sui giornali. Il piano di Marchionne, il piano della Fiat per Mirafiori, che Filomena Greco racconta in prima pagina di Imprese e Territori sul Sole 24 Ore, 1 miliardo di investimenti e la costruzione del SUV con il marchio Maserati. Tutti i dettagli li trovate appunto sul Sole, ma anche sugli altri giornali. La Stampa dedica addirittura l'apertura di prima pagina a questa notizia della decisione di Marchionne di investire 1 miliardo nella Fiat a Mirafiori. C'è poi la questione della Siria. Noi ce ne occuperemo alle 8:15 con Giuliano Ferrara e Giulietto Chiesa. Vi vorrei anche chiedere che ne pensate di questa iniziativa del digiuno lanciata dal Papa per la pace. Oggi Avvenire titola in prima pagina "Gridiamo la pace", c'è stato un nuovo appello ieri di Papa Francesco. Che ne pensate non tanto della iniziativa, certo dal punto di vista religioso e dal punto di vista degli appelli per la pace, il Papa ovviamente fa quello che è chiamato a fare, guai non fosse così. Che ne pensate delle adesioni, per esempio, dei politici? Ci sono dei ministri, il ministro Bonino, Mario Mauro, il ministro della difesa, il ministro Lupi, il ministro D'Alia hanno aderito, ma anche altri politici. Il ministro Mario Mauro viene intervistato, ministro della difesa, dall'Unità, da Umberto De Giovannangeli. Agli USA diciamo che la via giusta è l'ONU. Anche ieri Putin ha ribadito ci vuole il coinvolgimento dell'ONU. Tra l'altro oggi c'è il faccia a faccia Obama-Putin e qualcuno fa notare che la vera guerra che si consuma è proprio questa, tra Obama e Putin sul tema della Siria. Interessante anche l'articolo che trovate a pagina 7 della Stampa, firma Francesco Grignetti. Indovinate qual è il primo fornitore di armi tra i paesi europei nell'ultimo decennio? Indovinate chi è della Siria di Assad? Indovinato? Siamo noi, l'Italia. Armi italiane nell'arsenale di Assad. Racconta Grignetti, era lontano 98, gli Stati Uniti con Bill Clinton scommisero sul giovane Assad e l'autorizzazione da allora alle forniture monstre si può leggere già nella relazione dei materiali d'armamento del governo D'Alema del 31 marzo 99. Una quota rilevante di esportazioni si è concentrata su un solo paese di destinazione, in pratica per una sola commessa, la Siria. Siamo il paese primo fornitore tra i paesi europei dell'ultimo decennio delle armi per la Siria. Tutti i dettagli con le cifre di esportazioni di armi in Siria da parte dell'Italia le trovate pubblicate dalla Stampa a pagina 7. Siamo al momento della... prima della carta costa questa. Oh, l'ho trovato un trafiletto sul Corriere della Sera. Sti porcelloni di deputati inglesi. Ma sapete che è successo? Hanno beccato nel 2012... dagli uffici dei computer degli uffici di Westminster, i parlamentari britannici hanno tentato di accedere 300.000 volte a siti porno. Hai capito? 300.000 volte in un anno a siti porno i tentativi di accesso dai PC del Parlamento britannico. Porcelloni che non sono altro, Le abbiamo beccati, il Corriere mette questo trafiletto. Ma siamo al momento la carta costa e oggi siamo sulla Stampa, dove trionfa Alice Castagneri, un'intera pagina corredata di foto sotto il titolo «Senza smorfie e linguacce, la foto è da buttare». Pare che sia la nuova moda dei VIP. Una volta che sono inquadrati dal fotografo, dal paparazzo, farsi immortalare facendo le boccacce. E quindi c'è la foto storica di Albert Einstein con la lingua di fuori, ma poi Sandra Bullock, George Clooney che fa l'occhiolino, Kevin Prince Boateng, che meno male abbiamo cacciato via dal Milan, che fa la linguaccia, Selena Gomez con la linguaccia, Miley Cyrus con la linguaccia, e Alice Castagneri si chiede in un'intera pagina: ma una volta non erano solo i più piccoli a fare le smorfie, invece adesso bocche spalancate, occhi storti, sopracciglia aggrottate, smorfie sul viso, nasi arricciati, ma chi se ne fotte? Chi se ne frega? Eppure una pagina sulla Stampa è dedicata a questo tema. Evviva! Ricordatevi, amici della Stampa, che come al solito la carta costa. Preserviamola. Ah, mi hanno scritto: ma come mai tu non scrivi, non dici mai sulla carta costa articoli del Sole 24 Ore? Qualcuno mi ha scritto così. Beh, è vero, sono più articoli di servizio, è difficile che siano articoli di colore. Aggiungete una buona dose di paraculismo e quindi il risultato è fatto.